America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, il presidente del Consiglio Mario Monti, è già rientrato in Italia, però prima di partire, come ormai saprete tutti, ha fatto notizia e l'ha fatta a New York. Sentiamolo. Se le forze politiche dovessero ritenere che in particolari situazioni mi sia ancora richiesto di servire in qualche modo il paese, io ci sarò membro del Senato e valuterò allora la situazione. Ecco, avete sentito, Monti ha fatto notizia, ma l'aveva fatta anche poco prima parlando al Council on Foreign Relations, uno dei più importanti think tank di politica estera negli Stati Uniti, dove gli era stata fatta la stessa domanda. Sentiamolo. Should there be circumstances in which they were to believe that I could serve helpfully after that period of the elections, I will be there. Ci sarò, non posso precludere niente. Alla domanda di qualcuno al Council of Foreign Relations, diceva: ma lei continua, resterà? Ecco perché Monti ha scelto l'America per dare per la prima volta questo messaggio. La spiegazione è molto semplice: i mercati sono agitati, c'è una forte preoccupazione per quel che succederà dopo in Italia. C'è la percezione di una continua instabilità politica, c'è la percezione di partiti che continuano ad essere un po' impostati sul passato piuttosto che sul futuro, e c'è il timore che in un dopo Monti possa tornare il caos. Questo è un passo in avanti molto importante per la dinamica dei mercati, soprattutto. Nella sua chiacchierata al Council on Foreign Relations, Monti ha affrontato anche altre questioni. Per esempio, ha ricordato che sarebbe assolutamente normale se Berlusconi si ricandidasse. Tra l'altro, ha detto Monti: Berlusconi in un certo senso è stata la persona che mi ha scoperto quando nel 94, come nuovo primo ministro, mi ha nominato commissario europeo. Ricordiamo che ancora il presidente del Partito della Libertà, la quale è oggi la componente più grande nel panorama politico italiano. Poi c'è stata una domanda anche su Draghi: scambierebbe il suo posto con quello di Draghi? E dice: ma no, dice Monti, non cambierei il mio mestiere con quello di Mario Draghi, sebbene il mio percorso accademico dovrebbe logicamente portarmi più in quella direzione, quindi all'interno della BCE. Poi ci ha raccontato che nel 2004 gli avevano chiesto se fosse interessato a far parte del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Il mio primo pensiero è stato: che noia. Devo ammettere oggi che forse ho sottostimato il fascino di tale posizione. Monti naturalmente ha dato anche un bilancio di questo suo viaggio molto complesso, sia dal punto di vista multilaterale che da quello del rapporto dell'Italia con i mercati. Visita in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU è stata per me un'esperienza piena di significato. Io avevo personalmente più esperienza a livello di Unione Europea che a livello di una grande, della più grande organizzazione multilaterale come sono le Nazioni Unite, quindi è stata un'ottima occasione per approfondire tematiche e conoscenze istituzionali e personali, e sono grato al Ministro Terzi per avermi anche in questa occasione aiutato a svolgere questo compito. Ecco, il primo capitolo di questa missione del presidente Monti negli Stati Uniti, come sappiamo, riguardava l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove lui stesso ha sottolineato di essere stato al debutto. Un debutto importante perché Mario Monti si è presentato prima come cittadino europeo e poi come cittadino italiano nel suo intervento davanti all'Assemblea Generale, ha rassicurato sul futuro europeo, ha cercato di sottolineare che dal punto di vista italiano la stabilità nel Mediterraneo è un nostro interesse nazionale di primaria importanza, ha affrontato una serie di tematiche che fanno parte, diciamo, del dossier delle Nazioni Unite, dai diritti umani alle missioni di pace, alla riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ecco, Monti nella seconda parte di questa sua missione si è dedicato, come vi dicevo, a un vero e proprio roadshow, a partire dall'appuntamento col Council on Foreign Relations, ma anche l'altra sera alla cena alle Sirte, infine un incontro sempre ieri da Bloomberg. Quindi tre incontri da roadshow e una serie di incontri nel contesto multilaterale. It would be a big mistake to think that it is actually a step towards a lasting solution. George Soros, il grande finanziere, è dubbioso sul futuro dell'Europa e questo lo sappiamo e sicuramente nelle sue conversazioni con Mario Monti glielo ha fatto sapere. E non ci sono dei passi ancora decisivi. Secondo lui l'Europa è lenta, si muove con troppe rigidità e quindi è preoccupato. Ci vogliono delle risposte precise a livello europeo che ancora non ci sono. Un altro messaggio sicuramente Monti l'ha avuto da Paulson che ha incontrato nella colazione di ieri da Bloomberg. The government had absolutely nothing to do, I believe, with the cause of this problem. This problem was created in the financial sector. Banks were too aggressive, overleveraged. Ecco, sentite da Paulson, ci sono dei problemi che si sono creati certo nel sistema finanziario, probabilmente i governi non avevano nulla da dire, però Paulson in dichiarazioni che ha fatto negli ultimi giorni è preoccupato per quel che sta capitando in Europa. Sappiamo che sia lui che Soros che altri finanzieri hanno liquidato posizioni bancarie addirittura americane, quindi c'è un po' di timore, di instabilità guardando in avanti, e Paulson ritiene, come molti altri, che ci siano tante cose da fare dal punto di vista interno. Ci sono delle sfide che noi dobbiamo ancora superare, non siamo competitivi, questo occorre ripeterlo, non abbiamo ancora ridotto la presenza dello Stato nell'economia, cosa che preoccupa gli americani. Quando dico che non siamo competitivi, cosa voglio dire? Beh, ci sono per esempio degli imprenditori, ho parlato l'altro giorno con un imprenditore che ha detto che lui ha investimenti in 60 paesi, non ce li ha in Italia. Perché? Beh, la scelta dove andare è enorme. Perché si deve andare in un paese che non dà garanzie di rapidità, per esempio sul fronte della soluzione giuridica, che ha delle burocrazie enormi, dei red tapes, come li chiamano in America, insuperabili, delle rigidità insuperabili? Perché si deve andare in un paese che ancora non ha risolto alcuni dei suoi problemi essenziali? Questa è la sfida per Monti, una sfida che del resto il Presidente del Consiglio conosce bene. Sentiamola ancora. I think there is wildly unexploited potential for growth in Italy, which is in theory extremely simple. Ecco Mario Monti di nuovo al Council on Foreign Relations, risponde esattamente a queste critiche e dice: beh, ci sono in Italia delle enormi risorse inesplorate, c'è un enorme potenziale di crescita. Ha detto: viviamo in un paese di una bellezza, di una cultura straordinaria che non ha rivali nel mondo. Il problema è che non siamo bravi nel marketing, è quello di cui ha bisogno l'industria. Ha detto: una semplificazione della burocrazia che il precedente governo aveva iniziato, migliori infrastrutture e soprattutto sbloccare le risorse inutilizzate. Dunque Monti sa cosa si deve fare. Il problema è farlo, il problema è capire se le forze politiche che lo appoggiano consentiranno che si vada avanti rapidamente nel risolvere quelle rigidità che ancora non ci consentono di fare quel passaggio dalle misure che già abbiamo adottato per mettere ordine nelle nostre finanze a quelle per creare i presupposti per una crescita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, in contemporanea con le riunioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che continuano. Monti è partito, ma le riunioni continuano ancora nei prossimi giorni. È stato organizzato un grande concerto a Central Park per sensibilizzare il pubblico e leader mondiali sul tema della povertà, per spingerli a fare qualche cosa. Sul palco ci saranno tra gli altri Neil Young, i Foo Fighters, i Black Eye, e dunque dedichiamo a questo concerto la canzone di oggi, Neil Young, Rocking in the Free World. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!